sì. Però bene, mangiando sì. Come Gianni Maria, Tamari, mormito sì. Avanti, chi è? Però bene, ci sei. E beh, Luca, in campagna sì. Che nessuno. Ciao Mari. Che nessuno. Antonello. Opunia, ci sei. Però beh, mormito sì. Però beh, mormito sì. Ciucucciù. Avanti. E peggio di Maria, mangiando stai. Luca, ci sei. Bello bene. Pronto? Chi è chi parlo? Allora. Lasciate libero il vostro canale che è in servizio. Lasciate libero il vostro canale che è in servizio. Arriviamo. Chi è? Avanti. Chi è? Gabriele. Sì, gioia. Luca. Attento Luca. Luca. Attento Luca. Ora, ora. C'è nessuno? Sì, no. Eia. Come mi ascolti con questo? Io voglio. Come? Bene. E con questo? Guarda un po'. Mi sembra meglio questo. E anche come segnale? Come segnale non ne ho, considera che sono un gommino. E invece con questo segnale ne ho, guarda un po'. Due tatti. Va bene. Questo è grande, questo qua, adesso vado con l'altro, guarda. Questo è l'altro, però magari è più forte di radio, no? Sì, più forte di radio. E il microfonino? No, va benissimo. Però lui, ha aumentato, con l'altro non ti sentivo proprio. Io sono col gommino in sala. Aia, sì, però prima col grande non ti ascoltavo, ora sì. Visto, meglio. Va bene, là, qua l'abbiamo risolto. D'accordo. Cosa stai guardando? Pubblicando. Cosa? Pubblicando. Schiaccia la portata e poi parla. Cubicando. Tando? Cubicando. Andavo là. Vabbè, ti lascio fare allora. Sveglia dopo. Sveglia. Ciao Luciata. Certo. Guardati il telefono. Che cosa? Il telefono, guardati su WhatsApp. Sì. Ah, sì, mi è arrivato un messaggio. Chi è? Avanti. Eia. Pomponio. Dormito sì. Chi è? Che ti ho sentito, bello bene. Non ti sento, no. E a me mi senti, grazie. Ciao Leoci, è bene, tutto ok, ti sento bene bene. Sono in salone. Ehi, anch'io ti sento bene, forte e chiaro, è chiasso. Eia, e non c'è funfugna. E sarà in KO. T'avrà succhiato la bionda. La matta gliene vaglia, a lui e a Mario Chigri. Tutti e due si sono messi d'accordo, a Utici a succhiare biondi. I Barrati. Ma si sono avuti la coppia perfetta. Mimì e Gogo. E allora, falli Julio. Avvedomi. Avanzo tutti e due gabbafari, una pelle e l'altra a capo. E cosa hai fatto oggi di bello? Bello bene. Ma Gio Maria sta chiamando. Oh, Gio Maria in Catalisi, chissà se mangia due gatte mucca. Va a parlare la pasta, che fulparo. È sicuro bello se fai la dreccia. Io mi sto guardando nel telefonino, mi sto guardando YouTube, la roba di pesca. Al televisore, al canale 59, lì è tutto roba di pesca, non te lo guardi mai. No, non lo prendo mai io. 59, te lo prendo subito io. E c'è un antennino in casa. Me lo sto guardando nel telefonino, almeno. Mi distrago un po' così. Tesoro, se metti il numero 59, c'è tutta roba di pesca. E adesso sto guardando questi qua che stanno, diciamo, facendo le cose, le costruzioni. Fanno vedere anche le costruzioni delle case in legno, quello lì. Piazza fa piatti per... non ho capito cosa è. Cioè stanno facendo un monumento di legno, scoprendo la cosa dell'albero. Fanno le case tutte in legno con tronchi enormi, fanno la struttura. Poi c'è quell'altro che gli mette le finestre e tutto il resto che ci vuole. Sono belle, sono. Ho visto che stanno facendo adesso delle cose. Un abbezzo di drunco, lavorano il legno, quelli fanno anche sculture, è belle pure. Io me lo guardo spesso, quel canale lì. E adesso sono con la motosega, stanno tagliando il legno, stanno facendo delle sculture. E poi più tardi fanno vedere anche Alaska. I camionisti in Alaska, devi vedere dunia ghiaccio, dunia neve, con i rivolti, quei camion americani enormi, devi vedere poco bombari in Natal ghiaccio, nelle strade. Ho capito. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, dai. Già ce l'ha acceso qua, ok, a dopo, ciao. Chi è? Venga avanti. Venga avanti, pulpi. Avanti, chi è? Avanti, chi è? Avanti, chi è? Chi è? Pulpi 1, pulpi 2. Avantos. Avanti, chi è? Avanti, gufo. Avanti, chi è? Tu che sei? È Babbo Natale. Sì. Perché sei tutto quanto prodiato. Tu che sei? Dimmi chi sei, poi ti dico tutto. Sono io, Babbo Natale. È vero. E tu chi sei? E tu chi sei? Sono un bambino. Ma quando sei nato? Quando sei nato? Ottobre. Ottobre? O novembre? Ebbene, uccì, morto sì. No, non sono morto, no. Ma con cane c'è, tutti in campagna là, all'aria aperta su. Tutti quanti arrostendo, là, la faccia nostra. Ah, io arrostito nel terreno. Fatto pancetta, gambi, porcetto nel forno con le passate. Da Costa Longa alla Graviglia. Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene. Almeno ti hai riempito la pancia. Quel sugo con ragù, magnadarita, dolci, pasta, pasticcini, fumantino. Adesso mi un bel caffè e un altro dolcetto. E una massa caffè. Puro. Cazzo, non basta, no, cazzo, e dopo ti sale la glicemia a 300. Ehi, già sta bassa, va, cazzo si campa una volta solo. Ehi, vabbè, ehi, oh, ya. Yeah. E adesso mi sto guardando me, il filmato di cosa, della spiaggia. La pesca in spiaggia delle orate. Già l'ho visto, mi sto guardando un film che sta finendo di Pierazzoni a Costa Fa Terrini. Ho capito, ho capito. E Gio Maria, sentito l'hai? No, si compagna o sua o la figlia, se sarà fatta a faccia soli. Avrà pieno bel zacchetto. Bubu. E allora, un altro che non mangia, amico. Oh yeah. Curarito. Luca, lo stesso sarà in campagna, Luca Montanaro. E Luca Frippe, non lo so dove è, dalla zucchera. Ho capito, ho capito. Tutti fuori, tutti a girella, oggi ha fatto una bella massa però, Sì, veramente bella. Solo che ci sta guardando adesso che sta mettendo quel cazzo di vento puzzinoso, cazzo. Eia, eia, Antonello non si sa dove, sarà con Mario. Vabbè dai, ti lascio pigliarti lo caffè e il dolcino, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, è il frizzantello per digerire. Curareto. E l'amaro, Jägermeister, per digerire bene. Me lo fai. Per digerire bene devo la valle in fronte. Un bel allungato Jägermeister. Buonareggio, e mi ho dimenticato il bacio con la ciliegina. Curareto. Al rum. Pomponio, ci sei? Chi è, chi è? La tua Golf che hai venduto cos'era? Benzina o diesel? Benzina. Ah, benzina. Ia, ia. No, me l'hanno chiesto se la go a diesel o benzina. No, perché questa che me l'ha chiesto ce l'aveva a diesel. Era l'Apollo 1003, benzina. Ma grazie a chi è, Antonello? Ehi, è tratta adesso. Antonio Michele Ulcino. Dimmi, caro. Il barrato, il cazzo credevo che eri cribato. No, non so come è fatto, non è stato tranquillo. Pensavo che eri cribato con l'amico Duglio, cazzo, il Pinocchio. No, sta sperando che muoia il fratello adesso. Sta pregando ogni giorno, scende giù Santa Maria, si mette lì davanti alla Madonnina e prega. E dopo da parlare e mi ricorda a parlare un culo. Ha detto se crepa che paga la bene a tutti. E mi credo domani. Così ha detto, cosa vuoi ti dica? Ma cos'è questa questione della cognata, cazzo, che prende 5 euro? Che pazzi. Aspetta un secondo, mi sta chiamando Simona, prende 5 euro a notte, a coso, a percentuale. Sì, la massa. Hai zitto a te. Sì. Grazie. Graziano. Ciao Giuseppe, e me? Mi fa la grappa. Non eri in campagna, però mi hai contato i figli. No, la fava stavo contando. Le fave, molte ne hai fatto. 20 kg. Buona, buona, tennara, tennara. Sì, tennara, tennara, muta, muta, Ehi, poni la frise, che diventa giusta, giusta. Giuro. Ehi, Gio Maria non c'è, Torre Squallo, sarà in alto mare. Che Torre Squallo sta pescando. Ah, pescare è andato con la canna. E allora, con la canna che riconta. Ehi, e dove è andato? In che mare è andato? A Papatango. Oh, è andato nell'oceano. E dove ci sono i suoi colleghi, gli squalli? Allora, dove sono gli squalli di andata? Prende un po' di vento, grazie. A chi vento? Anche se lo vento. Allora voi siete in un paio di Puglia, ti ritieni? No, no, allora sei sceso giù in campagna. Io sono in campagna. Ah, in campagna, se possiamo venire qua. Già era bella giornata, ma già fare il sole, si tenia freschissimo, così è. Oh, se ne appunto, sei freddo. E quando vedo lo sole si aveva, va, lo sole si è carente, si è presente, si è ventarito, li ziri, e ti dico che bisogna pigiare bene e andare fino a casa. Ti conviene pigiare bene e avviati, tanto adesso va bene, tu già sei qua vicino. E comincia anche magari un po' di traffico, se c'è la gente a mare, di Arabuti, se passi da lì. E poi adesso comincia il freschetto e fa di male, ci conviene pigiare il tratto e assassino. Non si bisogna fare la sera, pigiare la ripeti, poi tutto in bacca, e io remo verso casa. Già un grido, no, io poco fa la facciata si sente già, il freschetto che ce ne sta andando il sole, e si intende. Ma si sta sventolando anche te. In veranda vedo che c'è un fornetto. Aspetta un attimo. Vai, vai, grazie, siamo qua. E beh, Graziano. Chi è che non ho copiato bene, che ero facendo? E beh, Graziano, mi ascolti? Ehi, ti ascolto forte e chiaro. Ok, dai, sto provando questa radio, come mi ascolti? Ah, già si sente abbastanza chiaro, forse. Ok, dai, grazie. Ehi, va bene, fortissima. Tutto ok.